Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 666 e iniziamo subito la serata con della buona musica che ci arriva d'oltreoceano, un ottimo batterista e compositore, Christian Finger, che ha realizzato da poco un nuovo CD con tanti ospiti, tanti ottimi musicisti che impreziosiscono questa pubblicazione discografica. Il CD è Ananda e il sottotitolo The World is Bliss. Il pezzo che ci andremo ad ascoltare stasera è intitolato For Now ed è una composizione originale dello stesso Christian Finger, che in questa occasione è accompagnato da Zach Brock al violino, Dave Stryker alla chitarra, Vadim Neselovsky al pianoforte, Peter Metken alla chitarra ed infine abbiamo Adam Armstrong al contrabbasso. Come ripeto, Christian Finger, oltre che essere compositore, è anche il batterista di questa formazione. Buon ascolto quindi con Christian Finger dal CD Ananda. Thank you. Questa era la musica del batterista e compositore Christian Finger, che ci ha fatto ascoltare questa sua composizione originale intitolata For Now, veramente molto bella e ricca di belle intuizioni compositive oltre che di belle performance strumentali. Il gruppo è formato da Christian Finger alla batteria, appunto, e anche alle composizioni, Zach Brock al violino, avete sentito anche una sua bella performance, Vadim Neselovsky al pianoforte, Dave Stryker e Pete McCann alle chitarre, Adam Armstrong al contrabbasso. Il CD è veramente molto interessante dal primo all'ultimo pezzo, ci sono composizioni piuttosto raffinate, interessanti dal punto di vista proprio compositivo e con delle esecuzioni di grande raffinatezza, veramente un bel progetto discografico questo Ananda, con la collaborazione di tanti ottimi musicisti che offrono occasioni di grande qualità strumentale in questo progetto che Christian Finger ha creato. Il sottotitolo di questo CD, che si chiama Ananda, è The World is Bliss. Ed ora passiamo alla musica di un conosciuto musicista argentino, Dino Saluzzi. Si tratta di un musicista che è soprattutto conosciuto per essere un grande fisarmonicista, ma è anche un compositore molto valido, ha composto della musica per pianoforte e la ECM ha realizzato un CD proprio con questa sua musica. Sono composizioni che vanno dagli anni 80 fino agli anni 2000. Dino Saluzzi ha 80 anni, è nato nel 1935 e al pianoforte, per interpretare la musica di Dino Saluzzi, una sorta appunto di omaggio, abbiamo il giovane pianista Orazio Lavandera, ed il titolo del CD è Imagines, il sottotitolo Music for Piano. Quindi ci ascolteremo una composizione originale di Dino Saluzzi intitolata Claveles. Ricordo che al pianoforte abbiamo Orazio Lavandera. Buon ascolto. Questa era la musica del bandoneonista, pianista, compositore argentino Dino Saluzzi. L'interprete del pianoforte era il giovane pianista Orazio Lavandera, che per la ECM ha realizzato questo omaggio a Dino Saluzzi interpretando la sua musica con grande sentimento. Avete sentito una dolcezza estrema, una rara eleganza in questo giovane pianista che interpreta veramente in modo magistrale la musica dell'autore argentino, ottantenne. Dino Saluzzi ha suo nome questo disco, realizzato poi però al pianoforte da Orazio Lavandera. Il CD è intitolato Imagines, pubblicato dalla ECM. Noi ci siamo ascoltati la composizione originale di Dino Saluzzi intitolata Claveles. Proseguiamo adesso con un giovane artista toscano, si tratta di Giulio Boschi, ottimo contrabbassista ma anche compositore, che ha realizzato un CD con una serie di pezzi che provengono da progetti diversi delle sue tante attività musicali. Stasera vi voglio proporre Rovine Sommerse, una sua composizione originale, un live realizzata alla Cappella Scafurno di Livorno in occasione dell'anteprima per il rassegna Jazz Messengers, un gruppo formato chiaramente e guidato da Giulio Boschi al contrabbasso e alle composizioni, ma erano presenti anche Claudio Laucci al pianoforte, Mattia Donati alla chitarra. Buon ascolto quindi con il Rasenna Jazz Messengers di Giulio Boschi in Rovine Sommerse. Thank you. Bene, questa era la musica del giovane contrabbassista e compositore Giulio Boschi, che ci ha fatto ascoltare Rovine Sommerse, una sua composizione originale tratta da questo live realizzato alla Cappella Scafurno di Livorno come anteprima di presentazione del gruppo Rasenna Jazz Messengers, capeggiato da Giulio Boschi e con la partecipazione di Claudio Laucci al pianoforte e Mattia Donati alla chitarra. Bene, dopo questa particolare composizione del valido contrabbassista e compositore Giulio Boschi, è il momento di ascoltarci la musica di Daniele Ferretti. Il CD è intitolato Zoé e questa è la musica della colonna sonora Original Motion Picture Soundtrack. E questo progetto musicale è stato presentato al Busseto Music Film Festival nel 2012, festival nel quale ha riscosso addirittura il primo premio. La musica di questo particolare CD è suonata dall'Orchestra Classica di Alessandria e Daniele Ferretti è, oltre che il compositore, l'orchestratore, anche il conduttore di questa orchestra. Ci ascolteremo da questo progetto discografico Dado e i Bambini. Buon ascolto. Thank you. e ci siamo ascoltati la colonna sonora di Zoe, la musica di Daniele Ferretti che conduce l'orchestra classica di Alessandria. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Dado e i bambini, una composizione molto delicata, raffinata, con delle atmosfere sospese veramente eleganti che simboleggiano un pochettino tutto questo progetto discografico di Daniele Ferretti, che con questa colonna sonora ha vinto anche il Busseto Music Film Festival nel 2012. Bene, lasciamo la musica di Daniele Ferretti ed andiamoci ad ascoltare Perry Bickman, che torna nei nostri programmi con un nuovo progetto discografico intitolato As Wonderful Sings and Plays Gershwin. Perry Bickman Sings and Plays Gershwin. E da questo CD noi ci potremo ascoltare una composizione intitolata Nice Work If You Can Get It, molto famosa. Sentiamo l'interpretazione che ci offre Peter Bickman, che in questo progetto discografico non solo canta ma suona anche la chitarra, accompagnato da Peter Tomlinson al pianoforte e Lou Pappas al contrabbasso. Buon ascolto. A man who only lives for making money lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy meant. Fall in love, you won't regret it. That's the best work of all, if you can get it. Holding hands at midnight, 'neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Thank you. golden hands at midnight, 'neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Questa era la voce del cantante e chitarrista Perry Bickman. Perry Bickman, che ho avuto il piacere di presentare più volte nei miei programmi con le sue varie pubblicazioni discografiche, spesso dedicate ai grandi del passato, con grande amore, con grande semplicità, nello stesso tempo con professionalità. Il CD è intitolato appunto Swanderful, Perry Bickman Sings and Plays Gershwin, e noi ci siamo ascoltati Nice Work If You Can Get It, l'interpretazione in pieno clima mainstream, con grande rispetto per la tradizione. Perry Bickman alla voce e alla chitarra, Peter Tomlinson al pianoforte, Lou Pepper al contrabbasso. E adesso, dopo Perry Bickman, possiamo andare ad ascoltare Lisa Manosperti. Lisa Manosperti è una cantante molto particolare che si è guadagnata con questo CD la selezione per il Doobidoobidoo 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane, e presenta un progetto molto interessante e dalle preziose caratteristiche di originalità. Il progetto è dedicato a Ornette Coleman, scomparso da pochissimo, e sulle musiche di questo grande artista Lisa Manosperti ha scritto dei testi. Il CD è intitolato Where the West Begins, e insieme a Lisa Manosperti alla voce abbiamo Roberto Ottaviano al sax tenore soprano, Giovanni Maier al contrabbasso, Domenico Caliri alla chitarra e Zeno De Rossi alla batteria. Si sta parlando di artisti di primissimo livello nazionale per un progetto veramente, come ripeto, molto interessante e particolare. Il pezzo che ci presenta stasera Lisa Manosperti è Turn Around. Buon ascolto dal CD Where the West Begins. Another trip to do, another turn around, another back to fool and go away now. Some dreams are coming true, some dreams are broken too. It's never time to stop but to go on now. Other people, other faces, other glances, other places to meet and to know. A point of no return inside a crazy wheel that show the real face of our nature. Another song to sing, a catchy melody. It leads over another destination. Other people, other faces, other glances, other places to meet and soon know. Another trip, it's never time to stop, but to go on now. Other people, other faces, other glances, other places to meet. Questa era Lisa Manosperti, che da questo nuovo progetto Where the West Begins ci ha fatto ascoltare l'interpretazione di Turnaround con i testi scritti da lei. Insieme a Lisa Manosperti alla voce, Roberto Ottaviano al sax, Giovanni Maier al contrabbasso, Domenico Caliri alla chitarra, Zeno De Rossi alla batteria, che l'accompagnano in questo progetto discografico intitolato Where the West Begins, dedicato a Ornette Coleman. Ricordo ancora una volta che Lisa Manosperti, grazie a questo progetto discografico, per la sua originalità e per le sue performance vocali, è stata selezionata per il Festival delle Voci Jazz Italiane, il Dubidubidù 2015, l'undicesima edizione del Festival Radiofonico delle Voci Jazz Italiane. È un progetto particolare che per alcuni sarebbe sembrato molto difficile da portare avanti, ma Lisa Manosperti ha vinto la sua scommessa e è riuscita a portare Ornette Coleman a un livello sicuramente non così conosciuto, non così vissuto dal grande pubblico, che ha sempre visto soltanto in Ornette Coleman il portatore, il portabandiere del free e basta, e non ha mai considerato, o comunque molto poco considerato, Ornette Coleman anche sotto l'aspetto melodico. Dopo Lisa Manosperti è il momento di ascoltarci un grandissimo fisarmonicista, Jacques Pellerin. Jacques Pellerin ha realizzato un EP intitolato Back to Philadelphia e io vi voglio far ascoltare Fleur de Bossa. Buon ascolto con Jacques Pellerin. Thank you. Questa era la musica del fisarmonicista Jacques Pellerin, che è uno dei più grandi musicisti con la specialità della fisarmonica in Europa. Un grande artista con grande sensibilità e con grande amore per la tradizione, l'avete sentito in questo pezzo intitolato Fleur de Bossa, che fa parte del nuovo EP dell'artista intitolato Back to Philadelphia. E adesso andiamo avanti con Glenn Wilson. Glenn Wilson è un artista che si presenta per la prima volta in Anima Jazz. Per chi non lo conoscesse, è un artista che suona il sax baritono, molto bravo, con grande esperienza. Ha realizzato un nuovo CD intitolato Timely per la Cadence Jazz Records e l'ha fatto insieme ad ottimi musicisti quali il trombettista John Dertz, il pianista John Toomey, il bassista Jimmy Masters e il batterista Tony Martucci. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è uno tra i più interessanti del CD, intitolato Sightseeing, ed è una composizione originale di Glenn Wilson. Buon ascolto. Thank you. Sightseeing. Questa era la musica del sassofonista Glenn Wilson. Noi ci siamo ascoltati Sightseeing, una sua composizione originale tratta dal CD Timely. Si tratta di musica contemporanea con grandi agganci alla grande tradizione, sicuramente un bel equilibrio di sonorità, belle intuizioni compositive e straordinarie performance solistiche dei vari musicisti, che sono tutti molto bravi, di grande levatura. Musica interessante, musica di grande levatura, con momenti di estrema eleganza e raffinatezza. Il sassofonista Glenn Wilson guida questo gruppo formato dal trombettista John Dirt, il pianista John Tooney, il bassista Jimmy Masters e il batterista Tony Martucci. Il CD, appunto, Timely, è stato pubblicato dalla Cadence Jazz Records. Dopo Glenn Wilson siamo arrivati alla fine del programma e ci arriviamo con una vecchia conoscenza, un musicista polistrumentista che fa smooth jazz e lo fa già da tantissimi anni con varie pubblicazioni discografiche. Torna in Anima Jazz con questa nuova pubblicazione intitolata Tropic of Groove, dalla quale noi ci ascolteremo una sua composizione originale intitolata Tonight is Going to Be Alright. Buon ascolto con Motown Mo. We'll be right back. Questa era la musica di Motown Moe, grande esponente dello smooth jazz, che ci ha proposto i Tonight Is Going To Be Alright, tratta dal CD Tropic of Groove. Con questo si chiude anche la puntata 666 di Anima Jazz, e l'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollace e da Anima Jazz.